16ª edizione di Cinema Africa, rassegna di film dall'Africa e sull'Africa. Sono in collegamento con una delle volontarie, Elisa Savoia, benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Grazie mille, Rachele. Allora, Elisa, qual è il filo conduttore di questa 16ª edizione di Cinema Africa? Allora, per questa 16ª edizione abbiamo tentato un po' di scovare delle perle, diciamo, al femminile, quindi film incentrati su tematiche femminili o prodotti da girati da registe donne, quindi ovviamente donne africane. La maggior parte dei film seguono questo tema, anche se non tutti. Per esempio, nella serata di sabato verranno proiettati 3 film, di cui 2 seguono questo filone femminile. Adam di Mariam Touzani, è un film, appunto, Mariam Touzani è una regista marocchina e il film è dedicato alla tematica della maternità e le protagoniste sono 2 donne. Pure subito dopo ci sarà il documentario In Search di Berin Magoko, che appunto è una regista keniota, e il documentario verte sul tema delle mutilazioni genitali femminili. Quindi questi sono 2 esempi appunto di questa tematica che abbiamo cercato di seguire. Come si aprirà invece il festival il 15 ottobre? Sì, allora il primo film inizierà venerdì alle 9, alle 21, e si chiama Dimofè, che significa questo è il mio desiderio, il mio volere, dei gemelli Esiri, ed è un film nigeriano che parla di Lagos principalmente, quindi di questa metropoli che diventa soffocante, un po' che ha questo, diciamo, abbraccio con cui allo stesso tempo soffoca i suoi abitanti che cercano di scappare, e quindi in particolare segue le storie di 2 di questi abitanti della metropoli che poi si intrecciano, che vogliono tentare di emigrare verso Spagna e verso l'Italia. Poi insomma non so spiegare cosa succederà, però questo è il tema principale, e il film verrà introdotto da Nello Scavo, che è un giornalista che si è occupato in particolare del tema della migrazione verso l'Italia e del traffico di esseri umani. Oltre che in presenza al Cinema Perla, i film in realtà saranno anche visibili online streaming. Come funzionano queste 2 modalità? Allora, il festival appunto si terrà dal 15 al 17 ottobre, quindi da venerdì a domenica, quindi solo in quei giorni i film saranno visibili in sala al Cinema Perla, mentre la modalità in streaming permette di guardare il film fino al 20 ottobre. I film saranno visibili a partire dal giorno in cui e dall'orario in cui saranno proiettati in sala, quindi per esempio se qualcuno volesse vedere La Nuit des Rois domenica 17 ottobre alle 19, ovviamente non può guardarlo sabato a partire da sabato, ma deve aspettare domenica, però poi può guardarlo a tempo fino al 20 ottobre per guardarlo. Saranno disponibili in streaming tutti i film, a parte 2, che sarebbero Adam e Tukibuki, che saranno solo al cinema, e il cortometraggio Nakini, che precede il Mofè venerdì, e anche quello sarà visibile solo al cinema. Nonostante in questi ultimi anni, diciamo che il cinema si è praticamente fermato, no? A causa anche della pandemia, il cinema africano in realtà si è comunque dimostrato vitale. Avete avuto una grande scelta di film da proiettare in questa edizione. Sì, assolutamente. I film che noi scegliamo sono tutti film recenti, quindi che sono usciti in sala o che a volte devono addirittura ancora uscire in sala, quindi sono le vere e proprie prime. E non abbiamo avuto nessuna difficoltà, devo dire, a trovare dei film adatti per questa edizione, anzi ne abbiamo dovuti scartare per molti, non perché non ci piacessero, non ci interessassero, ma semplicemente perché ne avevamo veramente troppi e troppi molto belli. Ed è anche quello il motivo per cui abbiamo deciso di seguire un filone, diciamo, prevalentemente al femminile, per cercare di dare un tema all'edizione, perché altrimenti non sapevamo cosa mettere. C'erano veramente troppi film troppo interessanti, io avrei voluto metterne molti più ovviamente, ma insomma spereremo anche nelle prossime edizioni chiaramente. Certamente. Io, Silvia, ti ringrazio e ricordo ancora una volta, dal 15 al 17 ottobre, Cinema Africa al Cinema Perla qui a Bologna. Grazie ancora. Grazie a te, buona giornata. Ciao.